con Alessandro Ciccarelli del collettivo Fanzilla per parlare del Rome Photozine Festival dal 21 al 23 settembre alla Casa della Cultura di Villa De Santis a Torpignattara a Roma. Alessandro, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Partiamo dal collettivo Fanzilla, ci descrivi un po' questa realtà? Sì, diciamo che il collettivo nasce più o meno 3-4 anni fa da un'idea di Monkey Photo, che è una piccola etichetta che produce fanzine, composta da me e da Danilo Palmisano, da Paolo Cardinali, che ha un'altra etichetta di autoproduzioni fotografiche che si chiama Fugazin. Diciamo, intorno a questo nucleo poi si sono aggiunte altre persone legate a una galleria fotografica di nome Microprisma, che stava a Pigneto, adesso non c'è più, e poi diciamo altri appassionati. Diciamo, è un collettivo abbastanza variegato che ha dato vita 3 anni fa alla prima edizione di questo festival, che quindi è alla terza edizione. Siamo alla terza edizione, il secondo anno veniamo ospitati alla Casa della Cultura di Villa De Santis. Diciamo, è un piacere stare in questo posto molto bello e mano a mano diciamo cresciamo di numero. Ci racconti com'è strutturato? Sì, diciamo l'idea è abbastanza semplice. Ogni anno noi apriamo una call in cui diciamo possono partecipare chiunque produca autoproduzioni fotografiche. È una call diciamo gratuita. Le linee guida sono sostanzialmente di fare fanzine fotografiche, ovvero autoproduzioni a carattere fotografico che abbiano anche diciamo, una loro artigianalità, diciamo, sono caratterizzate da un'artigianalità, una tiratura limitata e un costo contenuto. Quest'anno alla call hanno risposto più di 60 artisti e avremo sui banchetti del Fanzilla più di 140 titoli. Sì. Per cui durante la 3 giorni ci sarà una mostra di fanzine disposta su banchetti, ci saranno incontri, workshop, insomma sarà un momento per stare insieme, scambiarsi anche delle idee sul mondo delle autoproduzioni e insomma vedere cose particolari, ecco, che non si vedono tutti i giorni. Ecco, proprio a proposito del materiale che vi è arrivato, qual è lo stato dell'arte? Che panorama descriveresti? Sicuramente rispetto alla prima edizione è un panorama in crescita, e questo magari corrisponde a uno stato di salute dell'editoria, in particolare dell'editoria fotografica in Italia, per cui diciamo ci sono sempre più fotografi altamente formati che, non trovando spazio per pubblicare, e scelgono la strada dell'autoproduzione, e questa si rivela diciamo una formula vincente, perché ci si può gestire autonomamente tutto il processo di creazione del lavoro e anche il lavoro di distribuzione, per cui vengono bypassati tutti dei meccanismi tradizionali che un po' filtravano la fruizione del lavoro fotografico. In questo si è creata una rete di soggetti e di realtà, o anche voi aspirate a una funzione di raccordo da questo punto di vista? Esatto, questa diciamo l'idea di Fanzilla è anche un po' quella di conoscerci e fare rete, perché forse l'ostacolo principale che si dedica alle autoproduzioni è proprio quello della distribuzione. Perché si tratta appunto di distribuzione diretta, sì. Per cui l'idea di creare un momento annuale in cui che possa essere diciamo il punto di raccordo sia per chi produce, ma anche per gli appassionati che sono alla ricerca di nuove produzioni, questo è proprio diciamo uno dei punti forza di Fanzilla. Rispetto a questa 3 giorni, durante l'anno vi siete dati e vi darete anche altri appuntamenti pubblici? Sì, Fanzilla, diciamo, oltre al festival, è un po' ormai riconosciuto come un punto di riferimento per le fanzine, per cui solitamente siamo sui banchetti di altri festival di fotografia che ci invitano. Saremo al Festival di Castelnuovo di Portogallo fine settimana di settembre, siamo stati, diciamo, in passato in vari festival italiani, per Sì. cui diciamo, siamo diventati un po' un punto di riferimento delle autoproduzioni fotografiche. In chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più. Ho visto che c'è la pagina Facebook dell'evento. In più cosa c'è? Social, per cui su Instagram e Facebook cercando Fanzilla Fest. Poi abbiamo un sito che è www.fanzillafest.com e per chiunque fosse a Roma il prossimo fine settimana, insomma, vi aspettiamo alla Casa della Cultura. Ci sono Ricordiamo. dei riferimenti. Ricordiamo allora la terza edizione di Fanzilla, Roma Photozine Festival, 21-23 settembre a Roma, alla Casa della Cultura di Villa De Santis. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Ciccarelli del collettivo Fanzilla. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo. Ciao. Ciao.